Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Abbiamo speso tutta la settimana a parlare di Florentino Perez e oggi cambiamo argomento. Parliamo di Florentino Perez che sta per prendere Ettore Messina. No, scherzo naturalmente. Oggi Palla Spicchi, ciao Flavio Suardi. Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Coach Peterson. Amici Sport TV. Abbiamo richiamato alle armi Werther Pedrazzi, penna fine del nostro basket, Corriere della Sera, Super Basket. Ciao Werther, grazie. Ciao a tutti voi, buon pomeriggio agli ascoltatori, grande coach, un abbraccio e un saluto. Ciao Werther, voi sapete Werther, ex giocatore, ex allenatore. Eh sì, lo so, tanto che Mike D'Antoni copiò da Werther la famosa difesa Eagle, non so se questa la sapevi coach. Senti, io ho letto con attenzione quanto tu scrivi. Abbiamo due serie di finali, una vicina, l'altra lontana dall'altra parte dell'oceano, una quasi finita dopo il risultato della notte. Beh, qualcuno vorrà vederla stasera. Rovineremo la festa e la sorpresa, però i Lakers hanno vinto ai supplementari 3-1, hanno vinto a Orlando, serie quasi finita. L'altra, quella della nostra, appena iniziata, però con una pessima cera. Stasera vediamo gara 2, la prima tutta per Siena, gara 1. Coach, tu fai questo parallelo tra la finale NBA e la nostra finale scudetto. Milano come Orlando, meno forte, meno esperta di finali rispetto a Siena, Milano naturalmente, e Los Angeles a Orlando dall'altra parte. Yeah, assolutamente, purtroppo sembra che le due serie siano cose scontate adesso. Non so cosa ne pensi Werther, perché dal punto di vista giornalistico, ma i tifosi che mi parlano dicono che gli dispiace avere questo divario. Parlo di Siena a Milano, che sembra destinato a un 4-0 se non stiamo attenti, che tutti avrebbero preferito un 4-3 perché sarebbe memorabile, e quindi parlano delle serie Carbio Palma di, non so, 20-30 anni fa. E questo qui è scontato, non so cosa ne pensi Werther. 4-3 coach sarà difficilissimo. La mia opinione in sintesi l'ho già espressa: non basta sognare, ci vorrebbe un'utopia. C'è una dichiarazione, l'unica dichiarazione a cui appigliarci, di Piero Bucchi, è quella che Milano, l'Armani, deve appesantire un attimo il suo peso specifico, la sua anima. E però non credo che sia preparata a questo, perché l'unico modo per appesantire il quintetto, entriamo subito in un dettaglio tecnico-tattico che è un po' il mio crucio da inizio stagione, per fare questo dovrebbe giocare Vitali playmaker, Hawkins guardia e Michael numero 3, e gli altri, come si diceva una volta con espressione non tanto felice, un po' brutale, carne da cannone sotto i canestri, sacrificandosi contro Eze e contro i lunghi senesi. Cioè non vedo altra alternativa che questo, che potrebbe anche essere un po' il paradosso, ma se non sconvolgi una logica così ferrea come la superiorità di Siena con un paradosso, diventa molto difficile anche sognare l'impossibile. Alleneresti così, coach? Voilà, Werther ha messo due opzioni per Piero Bucchi molto chiare. Uno, andare con un quintetto grande, grosso, pesante, tipo Vitali playmaker, che è un 2 metri, Hawkins un 2 metri quasi, diciamo 1,96, guardia Hall eccetera, così. O con un quintetto più piccolo, più veloce, più scattante, con i vari Joby Thomas, Price e compagnia, cioè, e le altre magari messe a Hawkins come ala piccola. Cioè, le scelte sono così, cioè, per Piero Bucchi, e non si sa quale meglio, perché Siena riesce a fare due cose insieme, quintetti veloci, che sono anche alte e anche un peso specifico. Coach, Werther faceva riferimento ad una dichiarazione di Piero Bucchi che è l'unica che conta. Secondo me ce n'è un'altra importante, e che è quella di Vitali dopo gara 1. Allora, la differenza tra le due serie: Milano, Orlando perderà la serie di finale con i Lakers dopo aver combattuto ogni palla di ogni partita. Questa notte ha perso ai supplementari, poi ne parliamo, ci facciamo raccontare la partita con canestri decisivi di Fischer. Milano vediamo se perderà dopo aver combattuto. Vitali faceva riferimento agli occhi di Milano, non occhi da tigre ma occhi da mucca, no. Come diceva qualcuno. Nella prima partita sono state parole molto dure quelle di Vitali. Durissime quando parla della propria squadra, perché dopo un quarto era 16-15 per Milano, cioè più un punto per Milano, un quarto, un punto. Però vuol dire che sei sullo stesso piano. Poi a metà del secondo quarto è venuto il diluvio universale. Orlando si è combattuto purtroppo anche commettendo, a mio avviso, errore. Quando arriviamo a parlare di questo avrò da dire. Sì, è anche vero, coach, che il primo quarto 17-16 per Milano, con Siena che fa 0 su 7 da 3. E poi il problema, secondo me, per una squadra che va ad affrontare Siena è che tu non riesci a capire in che modo Siena andrà a vincere la partita, perché quando non segna da tre la vince con una grande difesa, quando non corre la vince con un ottimo attacco organizzato. Cioè, sembra quasi davvero un muro inscalfibile. È un rebus per tutti quanti, perché questo vuol dire flessibilità, non solamente tecnico, non tattico, cioè, ma i giocatori hanno la lettura della partita, non si danno per sconfitte o in difficoltà se una cosa non funziona. Noi allenatori abbiamo detto: ehi, se il tuo tiro non va dentro, fai altre cose per vincere la partita, gioca difesa, passa la paglia, palla, piglia un rimbalzo, fai un tuffo per una palla vagante, prendono uno sfondamento, e loro fanno proprio questo. Cioè, proprio, se non il tiro non va dentro, come abbiamo detto, 0 su 7, era 17-16, allora ho sbagliato ieri, avevo detto 16-15, però se il tiro non va dentro fai altre cose che ti tengano in partita fino al momento in cui il canestro, la palla comincia ad andare dentro il canestro. Esattamente il loro piano di partita eseguito alla perfezione. 800-24-0024 per voi ascoltatori, per telefonare, numero verde per partecipare alla discussione. Cosa ne pensi, Werther? No, io stavo pensando che, al di là del fatto che probabilmente da irriducibile sognatore vedo le cose che non esistono, ma quella cilecca iniziale da tre era anche il frutto di una scelta dell'Armani di Piero Bucchi di accerchiare McIntyre e di cambi, abbiamo visto spesso Hawkins sui lunghi, e di non permettere quello che Siena, una delle tante, come avete detto, cose che Siena fa molto bene, ovvero provocare dal gioco a due, dal pick and roll, tutta una serie di situazioni a scalare che la Montepaschi è bravissima a leggere, e non necessariamente vanno poi a canestro o il portatore del blocco o chi ne ha beneficiato, ma si creano dei soprannumeri. E quindi io credo, mi sembra di aver visto che quello 0 su 8 iniziale di Siena fosse anche il frutto di una buona lettura, diciamo tattica, come di apertura della mano di poker da parte di Milano. Certo che è durata pochissimo, perché se non hai 0 dai due lunghi che stavano andando abbastanza bene, poi dopo ti trovi con lo sprofondo, con il burrone dietro. Però è stata proprio quella scelta di indurre quei tiri o molto prima o troppo dopo di quando il meccanismo perfetto, l'orologio svizzero di Siena, è abituato a segnare l'ora del tiro da tre. Ecco, è un'impressione. Ma al di là del discorso tecnico e tattico, non trovi che fosse molto arrendevole, come ha detto Vitali, l'atteggiamento di Milano nell'approcciare questa partita, questa serie già chiusa e già persa, a meno di un sogno, a meno di una forzatura, a meno di qualche invenzione? Stai chiedendo a me? Ah, prima a Werther, poi a te, coach. Okay. Ma tant'è vero che il voto migliore l'ho dato a Hawkins, perché ha dimostrato che lo spirito del falco vive, che lo spirito del falco vive sempre nonostante sia azzoppato. Io credo che sia entrata la cosa peggiore per Milano, è entrata ovviamente nella testa, dopo aver diciamo impostato una partita in cui qualche problema, qualche preoccupazione alla Montepaschi l'hanno creata. Poi quello strappo di Kaukenas e di Finlay, quindi senza McIntyre, questo doveva essere il punto debole di Siena, ma a volte si affrontano le cose secondo il luogo comune. McIntyre è il playmaker più forte d'Europa, va bene, allora non giochiamo nemmeno questa serie finale, è proprio lì che magari lo trovi un giorno con il mal di pancia, ma se non lo attacchi non lo scoprirai mai. Poi al suo tempo ti racconto come fanno i ciclisti, tu lo sai che quando il ciclista è in crisi, non so, la maglia rosa è quello vicino che lo marca, che gli sta sempre attaccato, quello che in crisi inizia la gara fischiettando, cantando, scherzando, perché dice: oh, quell'altro dice: oh, com'è in forma questo qua, oggi non spreco energia ad attaccare. Però scusa, io volevo farmi spiegare una cosa dal coach. Allora, Siena, coach, la forza di un sistema, Finlay già citato, partito ai margini, sembrava un giocatore sbagliato, sembrava un giocatore, una scelta errata, invece arriva ai playoff dopo il lavoro fatto durante l'anno, è funzionale alla squadra e decisivo. Milano, Vitali e Price persi per strada, se stiamo parlando di playmaker. Guarda, vorrei, innanzitutto hai ragione, perché Finley non è un playmaker, è un attaccante che è anche piccolo, che quindi porta la palla, può fare gioco a due, che oggi se tu sai fare gioco a due sei un playmaker, okay, qui, e se sei in giornata. E per la verità McIntyre, quando è appena venuto in Italia, era tiratore, rifinitore, terminale, non era un playmaker, e si è convertito in questo a Siena, capolavoro dello staff tecnico di Siena e anche del ragazzo stesso. Il mio commento su questo qui, e non capisco perché sto facendo uno spot pubblicitario per il mio 1-3-1 qui, ma non capisco perché gli allenatori non usano l'1-3-1, perché ti dà copertura su ogni cosa. E 1-3-1 è annulla il gioco a due, marca benissimo il pivot proprio in pivot basso, altre cose, ti tiene aggressività sulla palla. E ti dico dalla mia esperienza, cioè Werther ha citato il fatto che avevano occhi da mucca eccetera, ti toglie anche questo, ti mette le occhi da tigre, perché quando fai l'1-3-1, se lo fai bene devi essere aggressivo, è quasi uno scatto all'allarme per veramente mandare in circolazione adrenalina a galoni. Serve un po' di fantasia però in questo, coach. Io contro Siena vorrei mescolare la carta, un'azione a uomo, un'azione a zona, 1-3-1, un po' di pressing, tutto, cioè non lasciarli entrare in quello che si chiama ritmo partito. Ma coach ha detto una cosa specifica e precisa, ha letto una pagina del libro che non c'è più, la 1-3-1 in effetti è perfetta per affrontare da parte di una squadra che al limite ha qualche uomo contro uomo, trincea contro trincea, qualche gap sul piano fisico per coinvolgerli con l'adrenalina e tutto. Ma coach, allora io allargo, esco un attimo dalla finale. Il problema oggi del basket italiano, uno dei tanti, è che ci sono su 100 allenatori, uso 10 per fare una percentuale, 10% che sono allenatori e gli altri che sono cloni e che non escano mai da un percorso che hanno tracciato perché l'anno prima gli era andato bene, da uno schematismo mentale che prescinde dall'avversario che affrontano e dalle situazioni anche ambientali e emotive. Io sono molto critico sugli allenatori italiani e sul modo in cui leggono la partita. Dimmi coach. Certo, io ti potrei dire una cosa, un motivo per questo, ragazzi, se ho tempo per dire questo lo dico, che uno motivo per questo, prima era la VHS, la VCR, che videoregistratore, adesso c'è la DVD, computer, eccetera, e riescono a vedere gli schemi degli altri, il schema va bene, copiano e tutti fanno gli stessi schemi, mentre quando io allenavo non avevamo queste cose qui. La squadra di Taurisano aveva un marchio di fabbrica completamente diverso da ogni altro, Bianchini completamente diverso da ogni altro, Pentasuglia completamente diverso da ogni altro, Cardiole completamente diverso, cioè o Nicolas non ne parliamo, o che Gamba non ne parliamo, cioè Guerrieri non parliamo, tutti avevano un gioco totalmente diverso da ogni altro, perché la gente faceva quello che io definisco il sarto, cioè noi abbiamo preso le misure, l'altezza, larghezza, il peso, l'apertura di braccia del giocatore e abbiamo fatto il vestito secondo le misure proprio del cliente, o in questo caso la squadra, il giocatore, eccetera. E oggi dicono è lo schema che va bene, invece non è vero, lo schema. Io preferisco adattare il mio schema al materiale e non viceversa. Coach, prima di salutarti, un tuo commento su quanto si è visto stanotte questa vittoria. Il sarto è stato Derek Fisher, forse l'uomo meno atteso, anche se uno che esperienza di finale ne ha tante, però due suoi tiri da tre punti, uno allo scadere per l'overtime e poi quello decisivo nell'overtime. Come possono permettere queste cose ancora? Cioè, proprio qui in Italia, se uno non fa fallo tattico, le fanno una vivisezione, ok? Anche episodi di questo di recente. Comunque, a parte questo, e hai ragione, anche lo stile di fare la rimessa del tanto cantato Turkoglu con la palla in basso, no, prende la palla e mette sopra la testa, finta, passaggio. Ha dovuto chiamare lui un time out perché non c'è il ricevitore, marcato da Odom 2,09 metri, non mette la palla in basso, mette la palla in alto, finta qua, poi ping, una frecciata a qualcuno, finisco una palla a Pietros che aveva Rashard Lewis liberissimo da passare la palla, no, 1-6 e sbaglia, finita la partita, cioè supplementare, cioè voglio dire. E quindi ci sono stati, ovviamente succedono queste cose, anche io ne ho della mia esperienza come Werther, sai benissimo, anche dalla panchina mia e anche dei miei giocatori, però questa è stata una cosa tragica per loro, che uno aspetta da una squadra NBA cose un po' diverse. In una finale. Grazie coach, alla ciao prossima. Ragazzi, ciao Alberto, un bacio. Ciao, un bacio, okay. Un abbraccio. Venerdì prossimo con coach Peterson. Allora, tantissimi gli ascoltatori, cominciamo subito a parlare con lui, con loro. Da Treviso, Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Siamo da Treviso, allenatore delle giovanili. Perfetto. No, niente, volevo un attimo parlare del confronto tra la finale NBA e finale italiana. Sì. Già a metà ne ha parlato il coach Peterson. Sì. Però io non vedo questa grande differenza fra Lakers e Orlando. Anzi, Orlando non poteva, doveva essere lei 3-1. Perché gara 2 hanno fatto una rimessa bellissima, hanno sbagliato il canestro da mezzo centimetro per vincere. Sì, verissimo, verissimo. E ieri sera hanno fatto quella, hanno applicato la filosofia in NBA di non fare fallo anche avanti di 3. Quindi un 3-1 per Orlando ci stava tutto, non c'era niente da dire. Però sì, guarda com'è, Milano. Guarda come non è, sì. Sono i Lakers 3-1. Chiaro, chiaro, però non c'è questa differenza che c'è tra Siena e Milano, ecco, solo questo. No, ma su io questo non c'è dubbio. Io un po' e tra l'altro ho visto già una bella semifinale, quindi non c'è speranza contro Siena. Ma non c'è speranza, però non c'è neanche, io continuo a battere su questo tasto, non c'è neanche la voglia di lottare, di sognare, di inventare contro Siena. Si parte battuti ed è questo che faccio un po' fatica ad accettare. Michele, già che sei lì, diamoci pure del tu. Treviso mi sembra, Benetton mi sembra, almeno leggendo i giornali, dalla programmazione societaria, aver voglia di perlustrare altri territori. Si va decisi sui giovani. In questo caso sul serio non mi sembra una scelta minimalista quella di Treviso, tant'è vero che è stato firmato Hackett. Mi sfugge un po' l'ostinazione sul coach straniero, ma di questo poi possiamo parlare con calma. Però Treviso sembra l'unica squadra ad avere un progetto alternativo, un piano alternativo. Questo va benissimo e fa contenti sicuramente molti tifosi e anche noi allenatori. Già il settore giovanile lo stanno spingendo molto. Però non è bello vedere, appena uscite dalla semifinale, vedere subito il titolo dei giornali che dicono che ridurranno del 20% il budget. Appena conquistata l'Eurolega, magari uno sperava anche che va bene puntare sui giovani, però non già dire Bulleri non potrà più stare con noi perché il contratto è troppo oneroso. Forse nemmeno Nicevic, questo fa un po' male al cuore, ecco. Sì. Però la scelta dei giovani, il rientro di Martinoni da Varese, sicuramente fa felici, quello sicuramente. Per grazie quanto Michele. Riguarda sì. Il coach, per quanto riguarda, ci sono un po' di malumori, nel senso che sembra che sia una meteora. Nel senso, quando arriva un allenatore a Treviso, vedi il Lobradovic, vedi il Messina, comunque ha lasciato traccia anche negli allenatori delle giovanili. Ma Muti sembra che non stia facendo questo. No, cioè, questo sembra prima squadra, punto e basta. Poi questo quando è bruttissimo, se ne va, però, assolutamente. Questo è brutto e anche abbastanza grave, perché il capo allenatore deve dare linee, indicazioni, credito ed entusiasmo per crescere, soprattutto agli allenatori delle giovanili. Questo è grave. No, è grave quello che dicevi tu prima, Carlo. Secondo me l'unica chiave, tornando alla finale, è quella di cercare, come diceva coach prima, di mischiare le carte, di fare qualcosa di diverso, di giocare magari col quintetto piccolissimo e il quintetto altissimo, di riuscire a inventarti qualcosa, perché se la giochi così non vinci mai, è un 4-0 che non, neanche si commenta. Beh, sì, per mischiarle però... Mi spieghi una storia di McIntyre? Sì, bisogna vedere anche le carte che hai in mano, perché se hai tutti dei 2 DP che mischiali, ma invertendo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. È un'opinione personalissima e secondo me ancora una volta Dan ha centrato il problema, per quello che mi sono così accanito sulla 1-3-1, perché le uniche cose... Qui ci vuole Mago Merlino, cioè che Buchi inventi una cosa veramente strana e soprattutto che galvanizzi i suoi giocatori per portare quell'adrenalina che, come dicevi giustamente Carlo, non esiste, perché al primo sorpasso gli avversari, in questo caso Milano, dicono vabbè, questa è Siena e amen, e si rassegnano e consegnano le armi. Su McIntyre cosa... Che ti sembra il il parallelo prima della maglia rosa, no? Ti sembra viva un momento di difficoltà McIntyre, ma non nessuno, ma... nessuno si sogna di attaccarlo, no, perché lui è il playmaker numero uno in Esatto, Europa. Esatto, questo è il luogo comune. Può essere una sensazione assolutamente sbagliata. Parliamo di un campione dunque che è in grado di mascherare, che ha un plafond sempre garantito. Però partendo dalla semifinale con Siena e partendo soprattutto dai primi 10 minuti contro Milano, quando era chiaro, ma cosa l'ha detto, non è nato playmaker, era chiaro che la tattica dell'Armani era quella di isolare McIntyre. McIntyre non l'ha capito. McIntyre ha rischiato di mandare fuori giri la squadra. Io vado cercando il pelo dell'uovo, perché come nella parabola dei talenti sto giudicando il miglior playmaker, certo, d'Europa, dunque potrebbero anche essere sbavature, ma lui ha cercato, lui personalmente, la soluzione di forza per uscire da questo accerchiamento, tant'è vero che non ci riusciva. Ha iniziato, ha fatto 4 o 5 padelle iniziali anche andando vicino a canestro, e il problema si è risolto quando lì il soldatino lituano d'assalto col suo fucilino è entrato, ha saltato tutta la prima linea e si è buttato dentro con 2 penetrazioni, un tiro da 3, quello scarico a Finlay che ha dato il 26-17, da cui Milano non si è più ripreso. Però se vuoi attaccare McIntyre, secondo me devi andarci con Vitali in post. Vitali in post basso, spalla canestro ma in difficoltà fisica. Ma ineccepibile, non solo, ma 2 piccioni con una fava. Siccome Vitali è un ragazzo di indubbio talento, ma anche di grandi pretese, cioè lui pretende di avere la fiducia, e anche il modo per cercargli l'anima, per vedere di che cos'è, di dargli questa responsabilità, e vediamo come se la gioca. Andrea Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dico. Volevo proporvi 3 spunti flash di riflessione. Prego. Che stanotte ho fatto anch'io le 5 e mezzo per vedere la gara 4. Brutto periodo questo. Brutto periodo faticoso. Quando ho visto il canestro di Fischer, mi è tornato in mente Robert Horry, non so voi. Beh, giusto, sì. Il paragone è forse un po' dissacrante, però... Non so, un comprimario che sbaglia le prime 5 bombe e mette quella decisiva del pareggio, mi ha fatto un attimo saltare dalla sedia. Secondo, Dwight Howard, non sto capendo, perché pensavo che potesse incontrare molte più difficoltà con Cleveland, vista la battaglia di lunghi tra Varejao e Ben Wallace, lo stesso LeBron se si mette a saltarli in testa, oppure un Ilgauskas, non capisco perché abbia tutta questa difficoltà, perlomeno sotto l'aspetto dei punti, con una squadra come Lakers che ha Bynum a mezzo servizio e tutto il più ricambio di lunghissimi come Mbenga, che se gioca 6-7 minuti all'anno credo che sia già abbastanza. Credo che la chiave in questo caso si chiami, secondo me, mi perdoni, il vero erede di Robert Horry, che è Lamar Odom. Al di là delle caratteristiche tecniche, mi sembra lui quello che fa quagliare tutto. Fischer è semplicemente identico a se stesso, perché è un giocatore che di queste partite ne ha giocato un'infinità, poi se volete vi dico anche quante, perché i numeri li ha fatti il coach Peterson sulla Gazzetta di oggi. Poi c'era qualcos'altro? L'ultima è che mi sembra che Orlando, anche vedendo la serie con Cleveland di finale di conference, possa vincere delle gare tirate solo se gioca all'estrema perfezione, gli avversari sbagliano qualcosa, non possono scendere di concentrazione neanche nei 5 secondi finali. Questa è un'impressione, Gandhi, un'impressione... nella serie con Cleveland, quando ci faceva rimontare delle bombe impossibili di LeBron. Impressione condivisibile questa. Quanto a Dwight Howard, hai qualche idea, Werther? Ma io ho un'idea, no, non saprei dire e valutare il suo rendimento. Certo, un giocatore che della sua statura e del suo ruolo, che viene premiato nell'NBA come miglior difensore della Lega Pro, ha tutta la mia ammirazione comunque, sempre e a prescindere. L'idea che mi sono fatto invece della finale, e non è un'idea negativa, e il basket NBA è un grande spettacolo. Che genere di spettacolo? Cinema. Non sto dicendo il cinema in senso deteriore, cinema avventura, e nell'avventura americana ci sono, sai, alla fine vince sempre il predestinato, anche se quell'avversario gli dà il cazzotto, sembra che stia per soccombere, ma alla fine vince sempre il predestinato. E il predestinato è nello stile di gioco che loro adottano, di affidare sempre le soluzioni a livello individuale. Pensa che con tutta l'ammirazione, poi qui c'è in ballo anche un po' di storie, perché se Phil Jackson vince il decimo anello, supera Red Auerbach, si gioca per la storia, no? Non si gioca solo per un anello. Dunque, con tutto il rispetto e l'ammirazione, io facevo un po' il tifo per i Magic, perché mi sembrano avere giocatori che hanno una come posso dire, una versatilità europea. Ora Koch Peterson si è avvelenato con Turkoglu, ma Turkoglu era uno che in gara 3 ha fatto 18-19 punti, 6 rimbalzi, stanotte 7 assist, cioè che lavora più sul completamento. Mi sembrava un pochettino più squadra, un pochettino più a dimensione europea, e dunque perdente probabilmente. Anche se Koch Bangandi ha scoperto negli ultimi tempi che gli europei hanno dei fondamentali straordinari. Si chiamava, glielo dicevamo. Bryant ha cominciato a far giocare meglio i Lakers quando ha cominciato a passare il pallone. Qui diventano squadra anche loro. Signore, ho l'informazione dei mercati finanziari. Dunque, io ho un sacco di messaggi, anche tanti ascoltatori. 800 24 00 24, c'è chi scrive: ma nel basket europeo si è mai assistito ad un Florentino Perez che fa acquisti alla Ronaldo? L'ha fatto Florentino Perez, sta per prendere Ettore Messina, l'avevamo detto prima. Ma poi c'è anche, vorrei fare anche un discorso, chissà se avremo tempo, nel calcio c'è Florentino che prende Kakà, Cristiano Ronaldo, Ettore Messina, però ci sono anche altri aspetti da analizzare nel piccolo pianeta del basket. Ad esempio, notizia della settimana: Keith Langford, miglior americano probabilmente del nostro campionato, che va a giocare in Russia al Khimki, alla corte di Sergio Scariolo, 400.000 euro di indennizzo alla Virtus, e per lui 2.6 milioni di euro per 2 anni, cioè il quadruplo di quanto prendeva dalle nostre parti. Magari poi ci riflettiamo sopra. Roberto Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, due cose. La prima è che, secondo me, anche se la mentalità americana non lo prevede, non si può far pareggiare una squadra 3 secondi dalla fine in quella maniera. Secondo me è una cosa tipo stile Polly, lo so. E l'altra cosa è che non sono d'accordo con il coach Peterson sull'1-3-1, perché secondo me Milano non ha le gambe per fare l'1-3-1. L'ho vista molto più stanca di Siena, avendo giocato anche 3 partite in più. Secondo me non sono in grado di sostenere l'1-3-1 anche in delle parti della partita, cioè secondo me lo pagherebbero alla fine in ogni caso. Sì, ma 1-3-1, arma tattica. Poi voglio chiedere a Werther Pedrazzi. Werther, 1-3-1, questione di gambe o questione di testa? No, è sicuramente anche questione di gambe, ma soprattutto questioni di sincronismi, cioè di occupare posizioni prima che ci vada la palla, altrimenti, come in tutte le zone, sei spacciato. E all'amico di Rimini, quasi conterraneo, però vorrei permettermi, ma senza nulla a dire, è un'opinione esattamente contraria, cioè forse gli manca la testa, forse gli manca anche un po' di talento a Milano, ma non mancano le gambe a Milano. Se guardiamo Motei, allora lì potrebbe giocare in carrozzina, le gambe proprio non ci sono, ma per gli altri vorrà dire forse anche qualcosa che la maggior parte delle partite le hanno vinte o riagguantate all'ultimo minuto. Non credo che sia una questione di gambe, forse è una questione anche un po' di credere nelle cose, e quindi se credi, se non sei appagato comunque nell'inconscio, non nelle dichiarazioni sui giornali, di avere già raggiunto il massimo che puoi raggiungere con la finale, di aver già fatto il miracolo, allora puoi mettere in campo anche qualcosa di diverso. La 1-3-1 è una delle tante idee, forse magari non sarà 1-3-1, sarà 3-2 adattata, che poi diventa 2-3 a secondo del fronte d'attacco. Io credo che Peterson intendesse dire: proviamo qualcosa di diverso mai fatto, perché giocando come si è sempre giocato, Siena ha chiuso la stagione con 24 punti di vantaggio su Milano. Ma chiaro, se segui il fiume ti porta in piazza del Palio. No, Alessandro, sei già affogato prima di partire. Alessandro, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho premesso, sono innamoratissimo del basket anni 80, purtroppo lì c'erano giocatori italiani, si vedeva il basket nostrano. Buon gustaio. Sono un po' disinnamorato. Volevo chiedere questo, forse di parte, perché se no di Cantù forse sono abbastanza di parte, però l'unica squadra al di là di Fortitudo che ha fatto un colpo battendo Montepaschi e Virtus che è arrivata vicinissima, l'unica squadra che ci ha veramente creduto è stata Cantù quando ha giocato gli ottavi di Coppa Italia, che ha giocato ad un ritmo imbastendo un attimino, cercando di imbastire un po' i giochi del Montepaschi. Beh, proprio l'unica, no? Nel senso, io mi ricordo la Virtus, per esempio, si è andata anche sì, molto... Detto, al di là di Virtus, che hanno comunque un tasso tecnico superiore. Mm-hmm. Io voglio dire, c'è stata una squadra con un tasso tecnico forse mediocre, che però fino a un minuto e mezzo dalla fine ha cercato di mettere un po' in difficoltà. Certo. Secondo me Milano, anche se è una nostra antagonista, dovrebbe avere questa forza mentale. Anche se mi permetto di dire, lei ha ragione Alessandro, però mi permetto di dire, in partita secca e con una Siena che aveva sulla spalla la scimmia della Coppa Italia, quindi erano partite molto particolari quelle per Siena. Partita però, secca è un conto, serie è un'altra. Però voglio dire che Cantù è anche stata l'unica che ha perso quella partita con qualcosa da recriminare. Cioè, no? Proprio è stata in partita fino in fondo, e forse noi non parliamo ovviamente di torti, ma di errori, ma alcune decisioni e alcune situazioni sono state anche abbastanza contestabili. No, indubbiamente, però effettivamente il problema della partita secca la puoi anche magari sorprendere, c'è il nervosismo, e anche io penso che Siena, iniziando la Coppa Italia, avesse proprio quella scimmia, l'ansia dell'unico trofeo che non che aveva mai vinto. Però Cantù è stata veramente esemplare in quella partita. Adesso andiamo a fare un salto negli Stati Uniti, ad Orlando, dove c'è Simone Sandri, che ha visto naturalmente la partita di questa notte e quelle che l'hanno preceduta. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Buona mattina a te. Dunque, serie chiusa questa o Orlando ha ancora qualcosa da spendere? E poi ti chiedo di rispondere a quesiti dei nostri ascoltatori di prima. Ad esempio, Dwight Howard, 21 rimbalzi questa notte, ma non un fattore offensivo in questa serie. Perché contro lunghi non dominanti, almeno nell'immaginario, come quelli dei Lakers? Beh, la serie che si è chiusa, se guardiamo alla storia, dove non so, rientrare da 1-3 è una cosa quasi impossibile, direi di sì, soprattutto se consideriamo l'esperienza dei Lakers e come pare in particolare, che quando annusano sangue giocatori come Bryant sono veramente come degli squali, per cui non danno possibilità alla propria preda di rialzarsi. Io devo dire che, se consideriamo le occasioni perdute così sprecate dai Magic in gara 2 e soprattutto ieri sera, deve veramente rammaricarsi Orlando, perché aveva la possibilità di far girare una serie che tutti avevano già incanalato in direzione di Lakers dall'inizio. Invece Orlando, dopo aver staccato gara 1, ha avuto la palla del match point con Courtney Lee, con un layup sicuramente non semplicissimo, però era un tiro sicuramente buono. Sì. Avrebbe potuto strappare, rubare quella gara 2 a Los Angeles, che sicuramente ieri sera avrebbe dovuto vincere, se consideriamo la difesa disastrosa, veramente terribile, e io ci metto anche un po' di responsabilità nella difesa disegnata da Stan Van Gundy, che ha concesso una tripla troppo comoda da Derek Fisher a 4 secondi alla fine, e i liberi sbagliati da Howard e anche da Turkoglu da tutte le finali. Sicuramente Orlando è con le spalle al muro, secondo me non si riuscirà a rialzare, però ha veramente tanto da recriminare. Ha buttato diverse cose nella spazzatura. Dwight Howard non un fattore offensivo significativo in questa serie. Sì, sono d'accordo, e devo dire, bisogna dare secondo me merito anche a Pau Gasol, che, se guardiamo le statistiche, magari non ha numeri straordinari, anche se ieri ha fatto comunque 16 punti, 10 rimbalzi, però riesce a infastidire Aua, perché riesce comunque sempre a stare davanti, a non dargli una linea di passaggio troppo comoda, come magari succedeva con Cleveland, per cui Dwight Howard deve lavorare parecchio con Pau Gasol. Anche Andrew Bynum, che ha dei problemi comunque caratteriali, perché mentalmente non è ancora il giocatore che potrebbe essere, riesce comunque a infastidirlo. E la verità è che Dwight Howard è un giocatore potenzialmente eccezionale, però non ha ancora affinato il suo movimento offensivo, offensivamente è ancora abbastanza grezzo. E poi non dimentichiamoci dei tiri liberi sbagliati, certo, le finali che alla fine hanno fatto la differenza, perché se Howard mette liberi ieri sera, Orlando adesso va sul 2-2 e veramente può mettere i Lakers con le spalle al muro. Certo. In gara 5. Simone, per chiudere, che si è detto? Commenti del dopo partita in sala stampa, che cosa si è detto? Mi è piaciuto visto la, mi è piaciuta la conferenza stampa di Stan Gandhi, perché Stan Gandhi è un allenatore un po' particolare, secondo molti sottovalutato, secondo altri invece sottovalutato, e ieri la prima cosa che ha detto è stata: non abbiamo perso per esperienza, non sono stati errori di esperienza, i leader sbagliati nei momenti caldi. L'errore clamoroso sull'ultimo possesso offensivo dei Lakers nei due tempi regolari ha preso un po' di responsabilità anche per non aver disegnato una difesa straordinaria. In quel caso lì, in Europa, secondo me giustamente, io non capisco perché in America non succede praticamente questa tattica, non viene fatta mai. In Europa, quando sei su di tre a 10 secondi della fine, fai sempre fallo, normale, non ti rimai il tiro da tre. Normale. D'accordo. Però in NBA è rarissimo vedere la situazione tattica, è una delle cose che non mi spiego assolutamente. E secondo me, magari in quella situazione doveva assolutamente far fallo, soprattutto quando hai di fronte ai giocatori come Kobe Bryant e Derek Fisher, che è un'esperienza straordinaria, dai quali ti aspetti nelle stagioni calde. È chiaro. Invece non è incomprensibile questa tattica di Stan Van Gundy, che però è un po' la tattica un po' di tutti gli allenatori NBA. Sì, è un marchio di fabbrica americano. Grazie Simone, ci sentiamo domenica. Appuntamento a domenica con te e con il proseguo di questa serie. Ettore Messina, fallo l'avrebbe fatto lì. Non so se va a fare al Madrid l'NBA, capitolo chiuso, però insomma, le logiche del basket dicono sopra di tre fai fallo in linea di massima. Quelli segnano primo, sbagliano secondo, lo dicevo prima, è questione di DNA, o c'è o non c'è, è spettacolo, non puoi fare fallo, il fallo è speculativo, no, lì c'è il colpo che se va è il trionfo, l'apoteosi, e se non va c'è il sentimento opposto, il dolore, la disperazione. Sì, però senti, Simone Pianigiani dice, sto leggendo un'intervista di oggi, si gioca o per il gusto di giocare o per vincere, i nostri lo fanno per vincere, non importa in che modo, basta che... È la sublimazione della mentalità europea, che piace a te, piace a me, piace a lui. Cioè, in America no, si gioca anche per lo spettacolo. Ripartiamo da un ascoltatore dalla provincia di Messina. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Dica. Ancora, allora anch'io stanotte ho visto la partita in diretta sì. E come spettatore, visto che sono un grande tifoso dei Pistons, e tra l'altro ancora mi devo riprendere dallo scambio Billups. Ma anche lì sono logiche americane, che per noi sono imperscrutabili, esattamente come le tattiche americane, non si fa fallo sopra di tre, palla agli altri, eccetera, eccetera, eccetera, che loro sono americani, se lo facciamo in Europa, come diceva Werther Pedrazzi pochi istanti fa, sei un somaro, però loro sono americani e si va con quella filosofia. Parlava dello spettacolo, però voglio dire, anche Bryant ha fatto delle falle terminali su Howard per mandarlo in lunetta, che non hanno molto di spettacolare. Comunque voglio dire, tu non farlo tirare dai punti, ma perlomeno dico, non fare fallo, però o marchi più stretto, oppure lasci un tiro comodo sotto le planche. Non puoi marcarlo a 2,5 metri a uno come Fisher, che ha 20 anni di pallacanestro alle spalle. Ma è chiaro che vanno per il tiro da tre, perché il tiro da due fa il gioco degli altri, questo è evidente. Quindi c'è poco da fare, insomma, si fa fallo, due tiri liberi e poi vediamo. E poi a proposito, l'ultima cosa è chiuso, a proposito di Robert Torri, ancora mi ricordo la gara 5 fra Pistons e San Antonio, quando Rashid Wallace lascia Robert Torri da solo e la tripla per la gara 5 ancora. Ci sono giocatori che in partite di questo tipo hanno qualche cosa in più, no Werther? Sì, no, assolutamente. Di qua come di là dall'oceano, no? Basile. Guarda, ieri sera sbaglia sempre l'ultimo tiro. Segna tre punti, indovina quali. Gli ultimi, quelli della vittoria. 72-70 in gara 1, così diamo anche il risultato. Sì. È instant killer, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Milano ha qualcuno con queste caratteristiche? Secondo me no. No, assolutamente, è quello che manca a Milano, tant'è vero che è stato confermato dal presidente Prodi che il giocatore che vorrebbe, per risolvere i momenti di crisi solo per quello durante una partita, è proprio Gianluca Basile, per questa sua attitudine. Probabilmente sono giocatori che imprimono una forza mentale o da dentro cavano fuori quella forza mentale, per cui battezzano l'ultimo tiro e lo spingono dentro. È così. Io quando giocavo, sicuro che l'ultimo lo sbagliavo sempre. Questione di emotività anche, di chi è glaciale, no. Senti, vorrei tornare un attimo, se permettete, al discorso di Siena Sistema. Milano, squadra che è cresciuta senz'altro, però ti trovi, il discorso che facevo prima col coach Finlay, che è partito da giocatore sbagliato e diventa giocatore decisivo e magari copre un momento un po' così di McIntyre. Milano che perde per strada i suoi due registi, Vitali in netta crisi di identità, no? Certo. E Hollis Price, arrivato buon giocatore, adesso quasi oggetto misterioso. Non, è un tiratore, non segna mai. È un playmaker, boh, vediamo. È uno che ha un buon atteggiamento, ma onestamente sia nella serie con Biella che in questa, appena iniziata, sta in questi playoff in generale ha dato pochissimo. Attacco, scusa, una provocazione, così almeno... Secondo me questo Price non è così meglio dell'ultimo Bulleri. Poi qui lo dico e qui lo nego. No, anzi, ero preoccupato dalla notizia, preoccupato ovviamente, non siamo parenti per il bullo, dalla notizia che non lo terranno a Treviso, perché da qualsiasi altra parte vedo che, compresa la parentesi della Virtus Bologna, ha incontrato difficoltà caratteriali. No, ma tu hai ragione, spiace dirlo, però il Bulleri di Treviso vale 10 Hollis Price di Milano, no 1-10. Il problema è un altro. Qua siamo un po' a cuore aperto in queste trasmissioni. Hollis Price ha una giustificazione umanissima, sì, che voi tutti conoscete, certo, la perdita di una sorellina di 15 anni. E detto questo, e dimenticandolo per fare solo un lavoro di cinismo professionale, devo dire che non è neanche un playmaker, non è assolutamente un playmaker, ed ha anche proprio una leggerezza sia fisica che mentale nella conduzione dell'attacco, per cui quando ricevi il pallone da lui non ti senti quello mi sta mandando a canestro, questo è il passaggio di un playmaker, no lui, sono sempre passaggetti interlocutori, e io credo che lui sia il vero, cioè per fare un mosaico, poi il mosaico di Milano viene peggio di quello di Siena, ma per completare comunque un mosaico e poter confrontare due opere, perché così non le confrontiamo nemmeno, cioè sia proprio Hollis Price il tassello mancante. E Vitali perso per strada? Vitali perso per strada può essere anche uno smarrimento temporaneo, dipende da come lui capisce la grande società, da come lui capisce che non può, che nella vita non esistono i rimpianti indeboliscono, che non è Teramo, che non gli possono dare le chiavi io non voglio fare, no, scusa Montegranaro, non voglio sminuire niente, ma non gli puoi dare in mano le chiavi del Duomo di Milano, che è un pochettino di più della chiesa di Montegranaro o via dicendo, capito? Se lui capisce queste cose, io dico che Vitali, una cosa sola mi ha impressionato, inventa passaggi che gli altri non sanno vedere. Vede passaggi, sì, che altri non, sì, vedono, questo è senz'altro. Io dico che insomma, per farlo tornare deve farlo giocare. Lui insomma ha perso fiducia col perdere dei minuti, chiaramente è banale, però è così. È un altro giocatore, per esempio, che secondo me è sfruttato pochino e non benissimo, è Mordente. Mordente è un giocatore che secondo me, se sta in campo, ti può dare qualcosa di più. Per esempio mi immagino un assetto con Vitali play, Mordente guardia, Hawkins alla piccola e poi chi volete voi. Ma io credo posso essere, sono in mezzo, o sono d'accordo su tutte e due le cose o sono in disaccordo su entrambe. Il discorso di Vitali è ineccepibile, lui pretende la fiducia assoluta in minuti. Il problema può essere all'interno di uno spogliatoio, se è legittimo e se il coach si sente di dare questo credito, di dare come a tuo figlio, ci pensi prima di dargli in mano la carta di credito, capito? Se lo sente o se questo non altera altri equilibri. Per quanto riguarda Mordente, giocatore che adoro, però se dobbiamo esercitare un problema tecnico non sono convinto al 100%, perché Marco è sempre stato il giocatore più caratteriale che tecnico, più di rottura, certo, e anche di riaggiustamento di una partita. Ho visto tanti giocatori che erano super, guarda Kaukenas non accetta il ruolo di rottura perché vorrebbe, e da qualsiasi parte in Europa giocherebbe nei primi 5, ma è vero plus valore di Siena, sì, cioè è proprio quello che ti dice, questi hanno tutto, no, non hanno tutto, hanno anche di più, capito, perché gli parte dalla panchina Kaukenas. Io Marco lo vedo pure più Lavrinovic, bravo, è il di più, esatto, il più. Allora ti ribalto il discorso. Il problema è che non c'è la squadra dietro per avere il Mordente in più, capito? Certo, e passare in squadra non lo so. Per tirare le somme è chiaro che se no di poi, se mio nonno aveva le ruote una carriola, no, però io penso che l'ho detto mille volte, l'unica squadra in grado di regalarci una serie finale dall'esito scontato, ma dall'andamento Roma diverso. Dici? No, Bologna, Virtus Bologna, con le caratteristiche dei giocatori, penetratori atletici, lunghi che potevano dare fastidio a quelli di Siena, e un pizzico di follia di Bonicioli. Sì, sì, sono d'accordissimo. E purtroppo da qualche anno sotto i portici aleggia solo aria di mistero a Bologna. Non si capisce perché allenatore e presidente non debbano andare d'accordo, non si capisce perché tutto questo. O quantomeno si capisce benissimo, perché un giocatore come Langford non c'era, quell'altro, giocatori fuori fortissimi, ma il problema della Virtus è stato Boykins. Certo. Cioè, ma Boykins l'ha pagato come un calciatore e ha reso come un giocatore d'oratorio. Cioè, ha rovinato tutti. Una notizia di agenzia dice che secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'ex GC dell'Italia e ex del CSKA Ettore Messina ha detto sì per il Real Madrid. Ha messo l'inchiostro. Vabbè, dopo le ultime conversazioni, secondo Marca è tutto fatto, manca solo la firma sul contratto, ma ciò avverrà la prossima settimana. Primo compito di Messina al Real sarà quello di decidere il futuro di alcuni giocatori, contratto in scadenza. E poi vince l'Eurolega, naturalmente. Oh, siamo nel regno di Florentino, siamo tutti. E sei contento? Tre stagioni per lui comunque. Cioè, quelli buoni non rientrano come allenatori, no. Come vedi, non rientrano, e se non rientrano, però io ti dico, vuol dire che in Italia non c'è, tranne Siena, un progetto. Esatto. Questo è il dramma. Perché... poi ogni viene fuori un giocatore buono, Langford va via, ma Nicevic è un giocatore super. E va via anche quello da Treviso, li perdiamo tutti. Ma vedi, il fatto è che Siena è l'unica squadra ad avere la forza di trattenere i giocatori, non soltanto con i soldi, ma con un progetto vincente, perché McIntyre può andare dove vuole a guadagnare il quadruplo. Cioè. Grazie Werther, alla prossima. Alla prossima, grazie a voi. Grazie davvero Werther Pederazzi, Flavio Suardi. Alla prossima. Noi venerdì, la prossima che sarà venerdì prossimo. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro di redazione, Pietro Lacorte in regia. Lo Sport torna domani alle 17:00.